È stato un solo incontro, ma è stato magico. All'angolo di un tempo era domenica. Avevi un vestitino leggerissimo. Intorno a te un'aria di salsedine. E ti guardai deciso nel tuo intimo. E ti sfiorai le labbra con la fantasia. Mi sorprendesti e mi guardasti tenera. Senza parole mi dicesti amami. I nostri passi già sapevano il cammino, là dove il mare canta la sua canzone, brillava in ogni stella tanta passione, senza sapere il nome ci chiamammo amore. Grandi amori sono destinati a perdersi, le chiamano follie e muoiono sul nascere. Io mi domando ancora se negli occhi tuoi spendi per me nascosta ancora una lacrima. Spero che la vita non è un attimo, se non la spendi bene diventa tragico. Sempre inseguendo amori che ti lasciano un vuoto disperato di banalità. Davanti agli occhi miei ho la tua immagine. Sei tanto bella che mi vien da piangere. Vorrei tornare indietro senza perderti, ma poi mi accorgo che dormi accanto a me.